in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani e cominciamo oggi dal Sole 24 Ore che apre con un'intervista al ministro Poletti. Le sue dichiarazioni negli ultimi giorni hanno fatto molto discutere, prima quella sull'inutilità di una laurea anche se con ottimi voti presa a 28 anni e poi l'ultima in ordine di tempo sul fatto che sarebbe ora, secondo il ministro del lavoro, di superare l'idea di salario, di stipendio legato solamente al numero di ore lavorate. E allora è su questo proprio che il Sole 24 Ore intitola l'intervista che Fabrizio Forchevich, direttore del Sole 24 Ore, ha fatto a Poletti: salari legati agli obiettivi, chi non vuol discutere lo dica. E l'intervista la trovate poi a pagina 3 del Sole 24 Ore e visto che il tema è importante e ha fatto molto discutere, appunto vi leggo subito alcune delle domande, proprio quella che è legata alle dichiarazioni così controverse del ministro del lavoro. Chiede Fabrizio Forché: in questo contesto si inserisce la sua idea di una retribuzione non più solo legata all'orario e al luogo di lavoro. In primo piano pare di capire ci sono i risultati, gli obiettivi che il lavoratore deve raggiungere. E Poletti risponde: è così. Dobbiamo ragionare di un lavoro organizzato più per obiettivi che per orario. Questo consente una maggiore flessibilità e più coerenza tra tempi di vita e di lavoro. Possiamo dare priorità e riconoscimento alle esigenze delle persone. Non stiamo parlando di sottrarre, non bisogna avere una visione negativa, vogliamo liberare più risorse, vogliamo agevolare un'organizzazione più efficace della vita dell'impresa e dei lavoratori, non meno diritti ma più responsabilità condivisa. Sicuramente dichiarazioni che sulla carta paiono come minimo di buon senso, ma anche appunto all'interno si inseriscono in quell'idea di cambiamento, di riforme vere anche culturali di cui l'Italia ha bisogno. Però come abbiamo visto, le parole di Poletti hanno anche innescato molte polemiche. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche la lettera al risparmiatore, come ogni domenica, in cui Vittorio Carlini, il nostro collega di finanza, si concentra su un titolo per dare dei consigli al risparmiatore. Questa settimana è Geox, la famosa scarpa che respira. Il titolo è: spinge in multimarca per crescere in Cina e Stati Uniti. Un altro articolo della prima pagina del Sole 24 Ore dell'arcivescovo di Chieti Vasto Bruno Forte: dalle periferie della storia una nuova umanità, ed è un commento al viaggio di Papa Francesco in Africa. Vi segnalo anche dal Sole 24 Ore l'annuncio di quella che sarà la settimana speciale, una delle tante settimane speciali del Sole 24 Ore, che inizia domani con uno speciale su IMU e TASI, di cui si avvicinano anche le scadenze, perché questa è proprio una guida pratica per pagare in dicembre le tasse sulla casa. Martedì e mercoledì inizia invece un'altra iniziativa che si chiama Il vocabolario del Sole, dei libri, proprio dei piccoli dizionari, glossari con tutte le parole dell'economia. E poi giovedì invece continuano i libri sull'innovazione, e quello di giovedì è dedicato ai big data, la miniera dei big data, come i grandi archivi cambiano la nostra vita. Quindi appuntamenti di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì sul Sole. Tra l'altro a IMU e TASI, anche qui alla radio, lunedì a Cuore e Denari si parlerà, perché appunto sono imminenti le scadenze di queste tasse sulla casa. Passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera. Qui invece viene il titolo principale riferito a un'altra intervista, un'intervista fatta da Maria Teresa Meli al ministro dell'Economia Padoan. E il titolo scelto è: possibili rischi per la ripresa da che cosa? Dal terrorismo. Il ministro dell'Economia: il PIL allo 0,9% è una previsione, non un obiettivo. E appunto però su questo obiettivo, su questa previsione, pesano anche gli eventuali spese extra legate al contrasto del terrorismo. La fotonotizia però è dedicata all'agguato che c'è stato, lo avete sentito nei GR ieri, al leader curdo, che ha riacceso, così scrive Francesco Battistini con poi un'analisi a pagina 5 di Guido Olimpio, ha riacceso la Turchia. La Repubblica ha la fotonotizia anche in questo caso del gravissimo attentato di ieri in Turchia, ucciso l'avvocato dei curdi, e poi subito ci sono stati, come reazione quasi immediata, degli scontri a Istanbul. Vi segnalo l'analisi di Paolo Galimberti: il sultano e la regola del taglione, che trovate poi a pagina 4, dove si fa un interessante confronto tra Erdogan, il premier turco, e Vladimir Putin, il presidente della Russia, perché di Turchia. Abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi anche per questo scontro diplomatico, più che diplomatico, con appunto la Russia. Il titolo però è ancora diverso: Parigi blindata, vertice di paura per i grandi. Si sta per aprire infatti il che si apre domani, questo grande vertice sul clima, dove si dovrebbero veramente prendere delle decisioni per cercare di abbassare stroncare il riscaldamento globale, che tra l'altro da alcuni viene ancora contestato, anche se sappiamo l'ottobre scorso è stato il più caldo da quando si registrano le temperature sul nostro pianeta. Quindi alcuni segnali ci sono, alcuni climatologi però ancora li contrastano. Insomma, questo summit sul clima comunque poi finirà, apre appunto, è un così definito da Repubblica, vertice di paura. Pensate che ci sono 11.000 agenti dispiegati nella capitale per la sicurezza. Vi segnalo la prima pagina di Avvenire, che naturalmente dedica il titolo al viaggio di Francesco in Africa. Il grido dell'Africa, porta del giubileo. Infatti oggi si apre l'anno santo, proprio simbolicamente, con tra l'altro oggi è l'ultima, c'è la tappa finale nella Repubblica del Centrafrica di Francesco, e poi tornerà a Roma appunto per il giubileo. La Messaggero, un titolo ancora diverso: terrorismo alla stretta sul web. Sapete che il Premier ha parlato di questa cyber security, quindi internet e cellulari oscurati in caso di attacchi, poteri di emergenza a Palazzo Chigi. La fotonotizia anche in questo caso è dedicata all'uccisione, all'assassinio ieri, l'attentato al leader degli avvocati curdi Tahir Elçi. Tra l'altro il Messaggero ammette anche, da molto risalto a pagina 3, un altro vertice che c'è stato, che è stato un vertice dell'Unione Europea sull'immigrazione, dove si è deciso di dare 3 miliardi ad Ankara, cioè alla Turchia, per arginare gli arrivi dalla Siria. La prima pagina della Stampa ha un titolo ancora diverso: l'Unione Europea si tiene stretta la Turchia, e questo è riferito appunto al vertice sull'immigrazione che c'è stato e di cui il Messaggero ha parlato, ma nelle pagine interne. Oggi tra l'altro prosegue questo vertice, è un vertice proprio tra Ankara e l'Unione, 3 miliardi di euro abbiamo visto anche sul Messaggero, purché siano arginati i profughi. C'è stata poi naturalmente un accenno al fatto che c'è questa tensione rinnovata nel paese, perché per l'uccisione del leader curdo, a cui hanno fatto seguito subito cortei e scontri a Istanbul e nella stessa Ankara. La fotonotizia però è dedicata al giubileo, con una foto dei lavori in via della conciliazione, che è illuminata con luce a LED, esattamente come San Pietro. 10 mosse da fare subito per il giubileo, l'articolo che poi trovate a pagina 12 e 13 della Stampa. La prima pagina di Libero, un titolo ancora una volta molto forte, Grand Hotel Isis. Perché questo titolo? Perché secondo i dati raccolti da Libero, gli integralisti islamici sono qui da noi come a casa loro, vanno e vengono senza problemi, se li intercettiamo i giudici li scarcerano, se li espelliamo ritornano, il problema sono anche leggi inadeguate all'emergenza, in Francia le cambiano, noi no. Dall'algerino cacciato e rientrato 3 volte in un anno allo spacciatore, storia di jihadisti della porta accanto, trovate poi appunto questo approfondimento a pagina 3. Il Giornale ha un titolo ancora diverso, che fa riferimento a un calcolo su quante tasse si pagano in Italia, uno dei tanti che si possono fare. In questo caso Alessandro Sallusti, nel direttore del Giornale e probabile sindaco tra l'altro del centrodestra a Milano, ne parla Alessandro Sallusti nel suo editoriale, ma la tesi è, e questo è il titolo anche, Renzi uccide la classe media. Secondo uno studio, artigiani, commercianti e partita IVA sono diventati, testuale, i nuovi poveri. Poi c'è un accenno al commento che ha fatto Berlusconi sull'annuncio di Renzi, i famosi 500 euro da spendere in cultura, da dare a chi deve ancora compiere 18 anni. Quando compierà 18 anni, Berlusconi li ha definiti una vergognosa mancia elettorale. Vi segnalo l'editoriale, come ogni domenica, di Piero Stellino, criticissimo nei confronti di Obama, di Renzi e persino di Papa Francesco. Vi leggo le prime righe. Crisi mondiale di leadership. Forse non è un caso che gli Stati Uniti abbiano con Obama, testuale, il peggiore presidente del dopoguerra. L'Italia ha un capo di governo chiacchierone e incapace di fare le riforme che promette di fare. E poi, questo appunto è il passaggio su Papa Francesco, che persino la Chiesa abbia eletto al soglio pontificio un, testuale, gesuita pauperista. sono tutti effetti di una degenerazione prodotta dall'egemonia sulla cultura borghese di un indirizzo populista di matrice marxista, che non ha conquistato politicamente il potere di governare per via elettorale, ma la società civile, occupandone ovunque, gramscianamente, le casematte. Vabbè, ognuno può giudicare queste parole, perché che Obama non sia stato eletto democraticamente è un'affermazione un po' forte. Ci lasciamo però un attimo per una pausa e anche per le notizie sul meteo. Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Una buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo e gli ascoltatori di Radio 24. Ci attende una domenica tutto sommato discreta in gran parte d'Italia. Non mancherà, è vero, qualche nuvola di passaggio, soprattutto al nord, ma si tratterà di nuvole alte e velature che si limiteranno a offuscare un pochettino il sole, e qualche addensamento anche all'estremo sud. Sulla Sicilia tirrenica e in Calabria non escludiamo anche qualche residuo piovasco. Ma un po' dappertutto le schiarite saranno anche ampie e inoltre temperature in aumento. Pensate che nel pomeriggio al sud potremo anche superare i 15 gradi. Farà ancora piuttosto freddo nella prossima nottata invece al centro nord, con minime localmente anche sotto zero, ma settimana prossima non solo torna una zona di alta pressione, quindi il tempo resterà bello, ma anche le temperature riusciranno a guadagnare qualche grado. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati vi aspetto sul sito trebimeteo.com. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Dopo aver visto le prime pagine dei giornali, vediamo cosa c'è all'interno e torniamo quindi sul Sole 24 Ore, sulla prima pagina di Impresa e Territori, per un approfondimento di Giovanna Mancini sull'arredo, uno dei tanti settori del Made in Italy che esporta tantissimo e che è una delle colonne portanti del nostro sistema industriale. Il titolo: l'arredo lancia la campagna USA, perché il 2 e il 3 dicembre a Miami ci sarà un primo grande incontro con architetti, buyer e filiera per la promozione dei prodotti. Interessante la scelta di Miami, perché sicuramente dal punto di vista immobiliare una delle città più vivaci in questo momento negli Stati Uniti. Crescita, c'è uno schema che fa vedere quali siano i principali mercati per il nostro sistema arredo. In cima c'è la Francia, che è tra l'altro anche il primo paese anche per l'esportazione di tessile abbigliamento, seguono Germania, Regno Unito e appunto Stati Uniti. Dalle pagine interne del Sole 24 Ore vi segnalo anche, settimana scorsa forse lo ricorderete, c'era un articolo di Fabio Pavesi nelle pagine di Finanza e Mercati che mostrava quanto le banche avessero speso e spendano ancora in contenziosi legali. Oggi, sempre a proposito di banche, sempre Fabio Pavesi ci racconta un altro rischio sistemico, che è quello in questo caso degli scandali derivati dalla cinese CITIC, che rilancia il problema degli istituti too big to fail, letteralmente troppo grandi per fallire, che quindi in qualche modo vengono salvati, a volte anche dallo Stato, a volte anche nazionalizzati. È successo dopo la crisi di Lehman Brothers sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, e però con rischi forti poi per la finanza pubblica. E allora queste gigantesche banche, che sono 30 in tutto, quelle scelte da Fabio Pavesi, che pesano pensate il 76% del PIL mondiale. I primi istituti globali detengono attività complessive per un valore di quasi 60 miliardi di dollari. Dalle pagine del Corriere Interno del Corriere della Sera vi segnalo una bella intervista di Paolo Valentino a Joschka Fischer, che è stato è stato un importante politico tedesco. La sua carica più importante è stata quella di vice cancelliere nel governo di Schröder dal 98 al 2005, è stato anche leader dei Verdi e ministro degli esteri, e il tema naturalmente sul quale più lo stimola Paolo Valentino è quello del terrorismo globale. Secondo Joschka Fischer, l'intesa con Damasco, con la Siria, è un errore colossale. Sarebbe lo stesso errore fatto dagli Stati Uniti in Iraq. In Siria una collaborazione con Assad spingerebbe tutti i ribelli sunniti nelle braccia del califfato e produrrebbe un'ulteriore emorragia di profughi. E poi, a proposito di Siria, da pagina 37 del Corriere della Sera, una bella intervista all'archeologo Khaled al-Assad, che sta cercando di salvare i reperti appunto proprio in Siria. Gli chiede Roberta Scorranese: lei ha più volte chiesto aiuto alla comunità internazionale, che risposte ha avuto? Sin dal 2013 chiedo rinforzi, mi appello affinché i nostri archeologi non siano lasciati soli. Alcuni paesi hanno risposto, in testa sa chi c'è? L'Italia, la vostra meravigliosa Italia. L'ex ministro Rutelli con il grande archeologo Paolo Mattie, scopritore della città di Ebla in Siria, hanno promosso una campagna che mi ha commosso. Questione anche di sensibilità, c'è un legame fortissimo tra noi e voi. Io sono un po' curdo e un po' armeno, ma ho scelto di occuparmi di archeologia perché mi sento legatissimo all'impero romano. Torniamo invece al tema del lavoro e al tema, abbiamo visto con l'intervista sul Sole 24 Ore di Fabrizio Forché al Ministro del Lavoro Poletti, su Repubblica alle pagine 10 e 11 un interessante schema dove si mostrano alcune delle aziende dove già ci sono regole diverse, per esempio la Vodafone dove dal 2014 i dipendenti possono lavorare da casa una volta alla settimana, 2.500 persone lo fanno stabilmente, oppure Intesa San Paolo che con un esperimento avviato nello scorso marzo permette ai dipendenti di lavorare in sedi diverse dalla propria presso il cliente o da casa per 8 giorni al mese. Anche in questo caso, quindi, al di là del fatto della frase di Poletti che ha scatenato le polemiche, cioè di non conteggiare più, di non calcolare più gli stipendi solo in base alle ore lavorate, ci sono appunto tutta una serie di nuove forme di flessibilità, di organizzazione del lavoro che poi inevitabilmente in qualche modo si riflettono anche su come si calcolano gli stipendi. Un articolo che Alessandro Milan definirebbe da mani sul volante, lo trovate sul Messaggero a pagina 13, spese pazze per feste e tornei, l'Unione Europea dice alla Sicilia ridateci 70 milioni. Bruxelles contesta l'utilizzo dei fondi destinati al turismo e invece dati a pioggia. Per esempio, tra gli eventi scelti da finanziare con i soldi dell'Unione Europea, che poi sono sempre tutti soldi nostri perché è una specie di partita di giro, noi paghiamo all'Unione Europea tantissimi soldi tutto l'anno anche tramite per esempio l'IVA, che in Italia è tra le più alte in Europa e nel mondo, e poi dopo ci vengono ridati anche dei fondi, sappiamo che il bilancio non è mai, cioè ci viene ridato molto meno di quello che diamo all'inizio, e poi vengono usati così, in questo caso in Sicilia per esempio per il presepe di Custonaci e tra gli tanti altri utilizzi scoperti la ristrutturazione di un bar a Messina. Vi segnalo dalla stampa invece un bel reportage di Leonardo Martinelli che ha seguito Marine Le Pen nella sua campagna elettorale, fra i figli dei partigiani francesi sedotti dagli slogan di Le Pen. La leader del Front National, scrive Leonardo Martinelli, gioca con la paura per immigrazione e terrorismo, e una delle sue tante frasi è: siete vittime dell'Europa e con le tasse che pagate dovete sfamare i migranti. Sul giubileo scrive anche La Stampa con un bell'articolo di Andrea Tornielli, il Papa apre in Centrafrica la prima porta santa, che è appunto un po' questo gesto simbolico. Francesco ha scelto Bangui in Centrafrica appunto per l'anticipo delle celebrazioni, abbiamo visto, del giubileo. E vi dicevo, il giubileo, che l'articolo richiamato in prima pagina sulla Stampa, Francesco Maesano ci racconta quali sono i punti cruciali che devono assolutamente essere affrontati a breve perché il giubileo abbia successo. Gli interventi nell'ultimo mese ci sono stati gli interventi del prefetto Tronca, dalle bancarelle di Piazza Navona ai dirigenti amministrativi. Per l'anno santo, al via fra 9 giorni, resta moltissimo da fare. Ecco una serie di ritocchi realizzabili nell'immediato, perché appunto se mancano 9 giorni devono essere per forza di cose interventi, insomma, che si possono realizzare in poco tempo. E poi continuiamo a seguire questo viaggio di Federico Taddia, che è un nome noto naturalmente agli ascoltatori di Radio 24, questo viaggio tra le eccellenze artigianali in Italia. La puntata di oggi è dedicata alla bottega Bianco Bianchi, dove si utilizza l'antica lavorazione della scagliola, la pietra di luna, per dove appunto il titolo è la bottega dove un granello di polvere bianca diventa arte, perché poi viene utilizzata appunto per disegnare, per affrescare. Federico ci racconta che sono 130 pezzi la raccolta di Bianco Bianchi, di questi pezzi realizzati tra il 600 e l'800, pensate, una raccolta unica al mondo. In queste settimane una selezione è stata anche data in prestito al Museo Nazionale di Vilnius. Vi segnalo dall'Avvenire che, come sempre, ha il merito anche di parlare a volte di crisi o di argomenti che magari gli altri giornali, gli altri media un po' ignorano se non c'è un fatto di cronaca eclatante. Per esempio dalla Cina arriva questa notizia, perché tutti i giornali parlano di questo allarme smog a Pechino. D'accordo, questa è sicuramente cronaca proprio giornaliera, però invece l'Avvenire si concentra su un'altra notizia: l'esercito diventa meno popolare, rivoluzione e taglio di 300 200.000 militari. Con questa riforma le forze armate cinesi saranno più snelle, efficienti e high-tech e soprattutto torneranno sotto il rigido controllo del partito. E poi un'altra notizia, anche qui dall'Africa, ma da un paese di cui non si parla quasi mai, il Burkina Faso: il fallito golpe non ferma le presidenziali. Il paese alle urne dopo la cacciata a furor di popolo nel 2014 di Compaoré e il tentativo a settembre di reinsediarlo. Vi segnalo invece dal Fatto Quotidiano un articolo di Marco Ponti, che è docente alla Bocconi di economia dei trasporti, che analizza un po' questa possibile privatizzazione delle ferrovie dello Stato. Lui la definisce una privatizzazione senza concorrenza e ci ricorda anche alcuni dati sui conti delle ferrovie dello Stato. Costosa e inefficiente, la definisce Marco Ponti. La società a cui vengono dati dallo Stato ogni anno 10 miliardi di euro. Senza questi 10 miliardi, il vertice, si legge sul Fatto Quotidiano, sarebbe addirittura mostruoso. Un altro interessante articolo dal Fatto Quotidiano riguarda la riforma della giustizia, con il dossier a cui sta lavorando il magistrato Nicola Gratteri: mafia, rifiuti, prescrizione, la cura Gratteri per la giustizia. Tra le proposte, nuove norme su intercettazioni, infiltrati e confische. Sono tutto questo pool di tecnici che sta appunto incaricato da Palazzo Chigi di lavorare alla riforma della giustizia, che è una delle riforme annunciate all'inizio del governo Renzi, che il ministro Orlando sta portando avanti tra mille ostacoli, e ora appunto bisognerà anche sicuramente tener conto anche di questo dossier che Gratteri e i suoi collaboratori stanno preparando. Torniamo un attimo sul Sole 24 Ore, perché abbiamo parlato di Africa e di Francesco, perché vi dicevo dalla prima pagina l'intervento, il commento di Bruno Forte al viaggio di Papa Francesco in Africa. Abbiamo visto che Ostellino lo definisce un gesuita pauperista, e allora vediamo alcune delle parole di questo gesuita pauperista che ci ricorda Bruno Forte. Francesco ha detto questo quando era in Africa, quando era uno dei primi giorni, uno dei primi interventi fatti in Africa. Riconoscere manifestazioni di vita buona che crescono ogni giorno tra voi non significa in alcun modo ignorare la terribile ingiustizia dell'emarginazione urbana. Sono le ferite provocate dalle minoranze che concentrano il potere, la ricchezza e sperperano egoisticamente, mentre la crescente maggioranza deve rifugiarsi in periferie abbandonate e inquinate. In alternativa alla non equità sociale, il Papa ha evidenziato il modello da valorizzare e attuare. Così, mercoledì 25 novembre a Nairobi, nel giardino della State House, ha incoraggiato il Kenya nel suo impegno a plasmare una democrazia, edificandola sulle solide basi del rispetto vicendevole, del dialogo e della cooperazione, così da creare una società multietnica che sia realmente armoniosa, giusta e inclusiva. Io cosa c'entri questo con una definizione di gesuita pauperista? Vorrei veramente chiederlo a Piero Ostellino, ma qui mi fermo per lo spazio alle notizie sul traffico. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Abbiamo spazio ora per i supplementi della domenica e cominciamo naturalmente dal nostro, del Sole 24 Ore, e come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola Il giudizio universale, ed è una citazione è da Gabriel García Márquez, ed è questa: se c'è una cosa per cui nel giorno del giudizio universale dovranno condannarti è che hai avuto l'amore in casa e non hai saputo riconoscerlo. Con poche righe mi aveva risposto che la salute glielo impediva. Ma Gabriel García Márquez ringraziava per l'invito che gli avevo rivolto nel novembre 2009 di partecipare all'incontro degli artisti con Benedetto XVI nella Cappella Sistina. Il suo complesso rapporto col sacro popolare non gli impediva di interrogarsi su temi alti, come appare nel frammento che ho citato dalla sua diatriba d'amore contro un uomo seduto. Già un grande mistico come San Giovanni della Croce, basandosi sul Vangelo di Matteo, anticipava la materia d'esame a cui saremo sottoposti nel giorno del giudizio universale. Al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore, scriveva. E spesso, come dice Márquez, l'amore ci è accanto, nella quotidianità della nostra casa, e noi lo ignoriamo cercando grandi avventure, sognando atti eroici e amori supremi ed eterni. E invece il memorandum, sempre sulla copertina della domenica, il memorandum, la rubrica del nostro direttore, nostro di Radio 24, del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, intitolato Il Cavalier Colombo, Milano e la Torre Tedesca tutta italiana. Il riferimento, il racconto è quella dell'inaugurazione a cui Roberto Napoletano è andato, della Torre Allianz, una delle nuovissime costruzioni della zona di Porta Nuova, che adesso diventa l'edificio più alto d'Italia, di Milano e dell'Italia. E Roberto Napoletano ci racconta appunto dell'azienda, la Colombo, un'azienda lombarda che l'ha di fatto costruita, e di tutte le persone che ha incontrato e di questa energia nuova che indubbiamente si respira in questo magico momento un po' per Milano, grazie a Expo, ma grazie anche a tutti questi progetti immobiliari che hanno rinnovato, come non succedeva da tantissimi anni, la cosiddetta skyline di Milano. Il pezzo di copertina vero e proprio è però intitolato Il mio livello Beniamino, ed è un racconto di Maurizio Maggiani, ed è con questo racconto che lo scrittore inizia la sua collaborazione con la Domenica del Sole 24 Ore. Il racconto è appunto dedicato alle sue memorie botaniche, potremmo dire così. Da noi in Riviera l'estate fredda dei morti è più che altro tiepida e lucida. Dal vignale si vede tutto il golfo del Tiguglio naturalmente. Lì 25 anni cercai una pianta bella e forte, quindi appunto Memorie botaniche di Maurizio Maggiani. Questo è il primo articolo di Maggiani per Il Sole 24 Ore. Vi segnalo anche un interessante articolo di Gilberto Corbellini, che è un grande divulgatore, un grande storico della scienza, oltre che scienziato lui stesso, che racconta come, il titolo è Risse da bar tra gli scienziati, come le controversie scientifiche spesso nascano e nascondano emozioni irrazionali, quindi una cosa che gli scienziati non dovrebbero avere, la motivazione irrazionale, che si scatenano quando entrano in gioco valori morali e sentimenti politici. E poi un intervento di Elisabetta Sgarbi, ex direttore editoriale della Bompiani, dico ex perché adesso ha fondato questa nuova casa editrice, la Bompiani, che è parte della Rizzoli. Dopo l'acquisizione da parte di Mondadori ha visto un po' un'emorragia di scrittori o comunque di malumori, e alla fine Elisabetta Sgarbi, appunto ex direttore editoriale della Bompiani, ha deciso insieme ad altri di fondare questa nuova casa editrice, La Nave di Teseo, e qui racconta quali sono i suoi progetti. Li trovate anche sul radar della Repubblica, che titola proprio dedica la copertina a questa nascita di Mondadori Rizzoli e anche a questa nuova casa editrice, con un'intervista poi alla stessa Elisabetta Sgarbi, che si chiama La Nave di Teseo. Quindi il 40 per sé l'antitrust darà il via libera a questa Mondadori Rizzoli, o Mondazzoli come qualcuno l'ha chiamata. Il 40% delle quote di mercato in Italia saranno appunto apparterranno a questo colosso editoriale. La Lettura, come sempre, dedica la copertina a un artista, all'opera di un artista, questa volta di Giancarlo Vitali, a un artista italiano. E poi dall'interno vi segnalo, settimana scorsa forse ricorderete, il divertente articolo di Alessandro Piperno, che è scrittore ma anche critico letterario, sul ruolo della critica, come dovrebbe o come potrebbe svolgere il suo lavoro il critico. Ricorderete forse la definizione bellissima, che ho trovato bellissima, che aveva dato George Steiner del critico, che è il lettore con la matita in mano. Qui Franco Corimelli, che in un certo senso risponde all'articolo di Alessandro Piperno, dice l'articolo è intitolato Il doppio contagio della critica, botta e risposta, Piperno pretende faziosità e lamenta l'assenza dei grandi. Ecco una replica: chi recensisce libri troppo spesso lo fa rivolgendosi ai colleghi per affiliazione o per deferenza, oppure, peggio, all'amico più caro degli autori, l'editore. Ma forse il problema è che sono in troppi a scrivere. E poi una recensione vecchio stile di un libro che io sicuramente comprerò, e che si intitola La Nostalgia, un libro di Barbara Cassin edito da Moretti e Vitali. La Nostalgia, quando dunque si è a casa, Ulisse, Enea e Arendt, Hannah Arendt. Quindi il titolo della recensione è La lingua batte dove la nostalgia duole, un termine che fu coniato nel 1678, che indica un sentimento che rimanda alla capacità di descrivere il mondo e sentirsi a casa in qualche luogo. Un bel approfondimento su un autore che andrebbe sempre letto, riletto e poi ancora riletto ancora, ed è Giacomo Leopardi. Marco Balzano racconta La pietà laica che salva l'umanità. Con la lezione di Leopardi, l'odio è il sentimento naturale per l'uomo, placarlo accettando l'altro è la vera conquista, oggi più che mai. Alias del Messaggero in copertina, un'altra così recensione vecchio stampo, potremmo dire quelle recensioni molto corpose, in questo caso è del libro Atlante di un uomo irrequieto, di uno scrittore, Christoph Ransmeier, che è edito da Feltrinelli, che secondo in 70 microstorie, secondo la recensione del manifesto che è fatta da Camilla Miglio, racconta un po' il mondo, tanto che viene definito questo scrittore lo scrittore geopoetico. Macro del Messaggero dedica la sua copertina invece a quello che viene definito assalto al brand Italia. Starbucks si prepara a sbarcare nel nostro paese per venderci l'espresso, un altro colosso americano, Domino's, specializzato in pizza, è già a Milano. Grom ha dovuto cedere le gelaterie a Unilever, ha scelto di cedere le gelaterie a Unilever. Ecco perché i simboli della gastronomia tricolore fanno arricchire gli stranieri. E invece la Domenica della Repubblica, il supplemento cult, ha una copertina dedicata con una lunghissima intervista di Vladek Glodkorn a Svetlana Alexievich, che è il premio Nobel per la letteratura di quest'anno, I miei demoni. Intervista alla scrittrice bielorussa che tra pochi giorni riceverà ufficialmente durante la cerimonia a Stoccolma il premio Nobel appunto per la letteratura. Sempre dalla Repubblica moltissimi altri approfondimenti, vi segnalo in particolare come sempre l'intervista di Antonio Gnoli, quella su due pagine, l'intervista della serie Straparlando, e questa volta se la ritrovo è perché è veramente ricchissimo il supplemento della Repubblica e della Domenica, e non ritrovo esattamente la pagina. Comunque è un'intervista, una lunga intervista come sempre su due pagine, con il ritratto di Riccardo Mannelli, dell'illustratore Riccardo Mannelli, a Maria José de Lancastre, che è la vedova di Antonio Tabucchi, anche una grande traduttrice di Pessoa, e ci racconta la sua vita tra Portogallo e Italia. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi, mi fa segno un po' minaccioso Filippo Aureggi dalla regia, ancora un grazie a lui per avermi comunque tenuta nei tempi, e una buona domenica a tutti voi.